tocco, cocaina, non parlo, totorina, totorina. Tu, arresto e dopo dimmi chi per me rimarrà. Moto, moto, mota, non parlarmi patah che sono un po' malat, malat montan. Ahet, basta haram, voglio fare halal, basta soldi haram, basta soldi haram. Dentro i batiman ho fatto cose e non dirò. Mamma, scusami se anche stanotte non ritornerò. Non ritornerò, no. Faccio pa pa pa pa, scendo da popo. Mi manchi poto, non ti sento da un po'. Papà non c'è, manca d'amo. Cresciuto da solo dentro i batiman. Dentro i batiman ho fatto cose e non dirò. Moto motard, sembri non sentire freddo dentro il Moncler. Mentre ripensi alle parole di tuo pa, no telecomando non puoi tornare indietro. Ragazzi di strada qui hanno la testa calda, non ci pensano una cosa prima di farla. Mentre a casa stai aspettando un'altra condanna, nel tuo cuore ti dispiace solo per mamma. Non scappi dai tuoi fantasmi, no. Manco su macchina sport. Non vuoi finire all'inferno, baci quella croce che porti sul collo. Ripasso tra quei palazzi, mo tutti sanno il mio nome. Un video per il nipote, uno per il fratello, chiuso a San Vittore. Muoio dentro i batiman, ho fatto cose e non dirò. Scusami se anche stanotte non ritornerò. Non ritornerò, no. Faccio pa pa pa pa, scendo da popo. Mi manchi poto, non ti sento da un po'. Papà non c'è, manca d'amo. Cresciuto da solo dentro i batiman. Dentro i batiman ho fatto cose non dirò.